su queste labbra tu favella per me. Servilia, vieni a chieder supplicante del prigionier la vita, oppur la morte, se per la prima scrisse irrevocabil fato. E se il castigo tu vuoi, non il perdono, prima della domanda ottieni il dono. Signor, uccise Manlio, se ben sfidato, e per l'uno l'uccise, Cimmino in campo, ed obbligo di Tito gli ordini e del senato. Ma, o gran Tito, la legge già da te comandata, a te comanda, misera dignità. Se osar non puote con divina sentenza la pietà che dà nome e la clemenza. Signor, dammi il consorte e tolga il ciel che voglia autor di crudo affanno. Tito, per esser giusto, esser tiranno. Serviglia, del tuo dir io l'arte ammiro, tu nel chieder le grazie hai gran virtude, ma per chi de morir non v'è salute. Destin, almen concedi che nel brode suoi plumi ecca la morte mia. Servi, di maglio entri costei nell'orrida prigione, ciò al tuo facondo favellar ti done.